Tra il 1947 e il 1961 a Rockville nel Maryland, l'etologo John Callon, nel suo granaio, costruì una complicata struttura di 3 metri per 4,20 per un curioso esperimento. Si trattava di osservare l'esistenza quotidiana di un gruppo di topi liberi di riprodursi a piacere, o almeno entro certi limiti, cioè almeno di arrivare fino a 80 individui, una misura oltre la quale, in considerazione dello spazio ristretto, vabbè, sarebbe stato difficile capire che sia. Era partito Callon da gruppi di 12 topi, perché le prime esperienze avevano insegnato che 12 era il massimo numero dei componenti di una comunità, almeno di una comunità in cui gli individui riescano a convivere in buona armonia. Come i 12 apostoli, diciamo, li lasciò riprodurre e intanto ne osservava i comportamenti. I risultati in breve sono stati i seguenti. Allora, in ogni gruppo si distinguono uno o due maschi dominanti e si distinguono grazie alla distanza maggiore che riescono a mantenere dagli altri, dai subordinati. Tuttavia, allorché il numero dei membri del gruppo era aumentato, questa gerarchia sociale si rivelò meno stabile, con una proliferazione di classi e sottoclassi successive. Il rituale di corteggiamento del maschio nei confronti della femmina e il comportamento sessuale in genere cambia. Mentre in condizioni normali il maschio segue la femmina che si rintana, si esibisce in un poi si esibisce una specie di danza al maschio, poi si decide a un tenerissimo e lesto rapporto sessuale circa 5 secondi con affettuosi mordicchiamenti sul collo, beh, in condizioni di sovraffollamento il maschio non perde tempi in corteggiamenti, abbranca it nunc la femmina, la abbranca anche per parecchi minuti. E non solo, per lo più i topi diventano pansessuali e non guardano affatto di che sesso sia il partner sul quale rivolgono le loro attenzioni sempre più pesanti, diremmo noi. La femmina non si occupa più della manutenzione del nido e neppure della prole, che diventa preda gastronomica dei maschi. Aumentano anche i casi di aborto. Alcuni topi maschi prendono l'abitudine di muoversi nel branco mentre gli altri dormono. Si verificano frequentemente aggressioni e anche episodi di sadismo gratuito, tipo morsi alla coda. Infine, nelle condizioni di sovraffollamento, nelle femmine si sviluppano tumori alle mammelle e agli organi genitali. L'esperimento di Callon è un classico della riflessione etologica. Ci dice chiaramente che nelle comunità animali è necessario rispettare le distanze fra gli individui e che, superate queste, si ingenera quella che con metafora felice viene definita una fogna del comportamento. Soprattutto ci spiega che ogni variazione nell'organizzazione sociale prima o poi ha un suo corrispettivo nella biochimica dell'individuo. Se la farfalla del bacco da seta riesce a localizzare il partner a una distanza di 5 km e se a uno scarafaggio maschietto bastano poche molecole di volatile biochimismo di origine sessuale per prepararsi ad un incontro con la femminuccia, come racconta Edward Hall nella Dimensione nascosta, che è un vecchio classico del 66, è perché gli animali sono organizzati biologicamente per risolvere i propri problemi a notevoli distanze l'uno dall'altro. Anche se l'analogia va presa con le pinze, perché non sempre è facile liberare le osservazioni scientifiche dal moralismo dell'osservatore, è innegabile che questo esperimento qualcosa sulla nostra esistenza di cittadini metropolitani ci dica. Come minimo ci spiega perché la scrivania del capo ufficio è più larga di quella del semplice impiegato, o perché al passaggio del nobiluomo si apra la folla, o perché gli scranni dei vescovi sono lontani dal soglio pontificale, o perché si è così tesi nella ressa del metrò e così pronti ad irritarsi in coda al volante di un'automobile. Per l'ovvia ragione che i topi non parlano una lingua a noi nota, invece l'analogia non ci dice un granché sugli effetti strettamente linguistici della fogna del comportamento. Ci pensavo ieri, allorché sono capitato un po' per caso in un gruppetto di amici. Se con una o con due persone riesco a parlare, ad esprimermi normalmente, ascoltando e replicando, inserendomi tempestivamente nella conversazione, come aumenta il numero dei partecipanti all'interazione, mi sento perso. Salto i miei turni, bofonchio, cerco di mimare una seriosa attenzione al discorso altrui, ma mi accorgo anche che finisco con l'ingenerare quelle micidiali pause di silenzio che inducono poi magari anche al malumore dei presenti. Non è né affar soltanto mio, ben inteso, né granché nuovo. Anne-Louise Germain Necker, Staël or Stein, meglio nota come Madame de Staël, in un suo romanzo, in Delphine, descrive un suo personaggio assicurando che dispiegherebbe fascino e intraprendenza nel discorso più o meno in misura inversamente proporzionale al numero dei suoi interlocutori. A quanto riferisce Dan Hofstadter in quel suo bel libro dedicato alla storia d'amore come opera d'arte, che è uscito l'anno scorso, Madame de Staël si era ispirata a Juste de Constant, che era nato nel 1726 ed era il padre di Benjamin Constant, che da arringatore di folle e oratore sarcastico, entrando in una stanza dove c'erano più di tre persone, si chiudeva in un mutismo assoluto. La soluzione più frequentemente adottata per risolvere il problema è quella del divide et impera. La compagnia numerosa si frammenta gradualmente in piccoli universi conversazionali tenuti assieme al mero livello simbolico dalla struttura complessiva dell'occasione sociale. Così, in virtù di steccati mentali, noi riusciamo ancora, pur immersi fino al collo in situazioni che favorirebbero fior di fogne del comportamento, riusciamo ancora a fare qualcosa di quel che ai compagni topi non riesce più. La parola maschera le degenerazioni più evidenti, e nelle nicchie che il posto da noi occupato nella gerarchia sociale ci concede, in queste nicchie siamo capaci di rappresentare, diciamo, la vita come dovrebbe essere. Forse involontariamente, la storia d'amore come opera d'arte di Hofstadter è un libro fortemente critico nei confronti degli intellettuali e della loro capacità di amare con lealtà e dignità. Madame de Staël si innamora di Benjamin Constant, sulle cui malefatte chiude più di un occhio e di cui paga spesso i debiti forti, ma poi gli chiede di bruciare tutte le sue lettere. E anche Rosalie de Constant, cugina dello scapestrato autore dell'Adolphe, gli chiede di bruciare tutte le sue lettere. George Sand invece falsifica addirittura se stessa. Riscrive anni dopo alcune sue lettere d'amore ad Alfred de Musset, aggiustandole un pochino e soprattutto accomodando con il senno di poi e il senso del loro rapporto. Anatole France poi addirittura manteneva due linee distinte di corrispondenza con la medesima Léontine de Caillavé, una per l'ufficialità e una per l'intimità. Tutta gente che del coraggio delle proprie azioni non ne voleva sapere. Peccato perché delle lettere sarebbe opportuno aver più considerazione. Nel rumore di fondo delle nostre vite insopportabilmente affollate, costituiva un'ancora di salvataggio, una consuetudine pacata in cui, facendo i conti con se stessi, ci si provava a capire con l'altro. i nostri postini ne portano sempre meno. In compenso ci riempiono la cassetta di dépliant pubblicitari, di prestampati con vaglia, annunci del nostro giorno fortunato, multe, rendiconti bancari e bollette da pagare. Letteratura anonima, per folle solitarie.